Facoltà di Frequenza, la prima radio universitaria italiana, la radio dell'Università di Siena. Facoltà di Frequenza. Frequenza. Frequenza. Come puoi starne senza? Facoltà di Frequenza, la vedi, la senti.